Reportage in collaborazione con Euronet. Territorio Europa, un continente da proteggere, di Laura Bettini. La chiamano soil sealing, impermeabilizzazione del suolo, e significa in termini pratici che ogni anno in Europa una superficie equivalente a un'area più estesa di Berlino cede il passo all'espansione urbana e alle infrastrutture di trasporto. Tra il 1990 e il 2000 nell'Unione Europea sono stati cementificati almeno 275 ettari di terreno al giorno. La metà di questa superficie è impermeabilizzata in via definitiva da edifici, strade e parcheggi. A dirlo è uno studio della Commissione Europea, secondo la quale negli ultimi anni in Europa l'aumento medio di aree trasformate è stato pari al 3%, con picchi del 14% in Irlanda e a Cipro e del 15% in Spagna. Perché preoccuparsene? Perché meno terra significa meno terreni fertili, meno riserve idriche, meno biodiversità, più rischi idrogeologici, più cambiamenti climatici. Le aree più impermeabilizzate d'Europa sono, secondo lo stesso studio della Commissione Europea, metà delle regioni olandesi, tre interi dipartimenti francesi, intere regioni in Polonia, Austria, Estonia, Slovenia e 8 province italiane: Vercelli, Lodi, Verona, Piacenza, Parma, Campobasso, Matera, Catanzaro. Aprendo la Green Week europea, la settimana verde dell'Europa, diceva così il commissario per l'ambiente Janez Patočnik. Ecosystems and biodiversity provide services. Gli ecosistemi e la biodiversità forniscono servizi, servizi che sono risorse, risorse come assorbire le emissioni, impollinare le nostre piante, fornire lavoro. Proteggere l'ecosistema e la biodiversità vuol dire proteggere noi stessi ed è una questione di efficienza delle risorse. And so it's also resource efficiency. Ma il mar che si vedeva da lassù non c'è già più. Efficienza non è solo energia, sottolinea quindi il commissario. Efficienza delle risorse significa sfruttare bene e con intelligenza l'aria, l'acqua, la terra e tutto ciò che c'è sul pianeta. E quanto al suolo, bisogna prevenire, limitare e compensare, dice l'Unione Europea e ripete uno studio presentato proprio a Bruxelles dall'Agenzia per l'Ambiente austriaca, di cui fa parte Gundula Prokop. Activities should focus on prevention of soil sealing. Primo, ci si dovrebbe occupare della prevenzione, dell'impermeabilizzazione, quindi bisogna evitare la costruzione di aree verdi, spingendo verso il riutilizzo di aree dismesse. Ma è anche importante creare un giusto mix di aree urbane e aree verdi. Bisogna rendere accoglienti i centri storici. Ci sono molti aspetti da tenere in considerazione. Step two is to limit soil sealing as far as possible. Il secondo passo è limitare l'impermeabilizzazione grazie alle nuove tecniche, come l'asfalto permeabile, ad esempio. Il terzo punto è la compensazione della perdita di terreni. Ma c'è da raccomandare anche una certa flessibilità. L'Europa non è tutta uguale rispetto a crescita economica, demografia, densità di popolazione, risorse e rischi naturali. Eh sì, e poi bisogna evitare gli sprechi di terreno, e ce ne sono tanti di terreni abbandonati in giro per l'Europa, e cercare una via di mezzo. Regole europee ferree non sono possibili e comunque se anche i singoli stati le introducessero, si rischierebbe solo di spostare il peso dell'urbanizzazione da una regione all'altra, magari dall'interno all'esterno dell'Unione Europea. Ecco perché anche il commissario Patočnik ammette che su temi come questi si può al massimo definire una roadmap europea, un percorso fatto di regole condivise. Di certo, comunque, ora l'Europa non può fare nulla contro l'impermeabilizzazione dei suoli, dice Nicola Filippi, della Direzione Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con cui parliamo dell'impermeabilizzazione delle province di Parma e Piacenza, segnalate, come dicevamo, tra le peggiori d'Europa. Da analisi che sono state fatte comparando le voli aerei o immagini da satellite disponibili per vari periodi è stato possibile semplicemente misurare l'incremento del urbano nel corso del tempo, oltre che le altre dinamiche di uso del suolo. L'incremento è veramente esponenziale, non solo di area, ma anche in termini di struttura disordinata dell'incremento, che come impatto aumenta la gravità del danno sulle funzionalità dei suoli. Questa è la situazione al momento. Per il futuro avete già in previsione degli interventi? Siamo schiavi di due forze trainanti sempre più pesanti, cioè se negli anni 50 l'incremento era legato a una effettiva domanda di abitazioni o di piccole industrie, ora non c'è più, c'è un disaccoppiamento a partire dagli anni 70 tra queste domande e la crescita che continua di consumo di suolo, dove le forze trainanti assumono sempre più importanza se sono quelle legate alla speculazione edilizia e al ricatto cui sono sottoposti i comuni per gli oneri di urbanizzazione, che sono l'unica boccata d'aria che consente a molti comuni di tentare di non fallire. Secondo voi l'Europa può o deve intervenire? L'Europa temo che non possa intervenire se non sul piano culturale e di promuovere, perché la pianificazione territoriale non è di pertinenza di una direzione generale della Commissione. Torniamo alla lotta contro l'avanzata di cemento e asfalto. Prevenire, limitare e compensare sono le parole d'ordine. Prevenire, come in Gran Bretagna, dove sono stati imposti limiti molto severi alla costruzione di nuove abitazioni in aree vergini, o come in Polonia, Repubblica Ceca, dove esiste un'agenzia che si occupa della riconversione delle aree industriali dismesse, o in Belgio, dove si promuovono, abbellendoli, i quartieri vicini alle grandi stazioni ferroviarie, o in Germania, dove prima di intaccare aree verdi, si cercano le aree inutilizzate rimaste all'interno di contesti urbani già sviluppati. Quanto a limitare, le possibilità sono diverse e stanno nel campo dei materiali e della progettazione. Ma se proprio si deve costruire, allora è il caso di compensare. Ancora Gundula Prokop, dell'Agenzia per l'Ambiente austriaca. In Slovacchia si paga una tassa tra i 6 e i 15 euro per metro quadrato. In questo modo si costituisce un fondo per intervenire altrove. Ma che altro si può fare? I fondi strutturali europei potrebbero essere usati come sostegno se supportassero lo sviluppo all'interno di contesti già urbanizzati e le misure di mitigazione e compensazione. Si potrebbero promuovere incentivi e politiche nazionali su base volontaria, sostenuti da programmi europei che favoriscano lo scambio di esperienze. E infine si potrebbe rivedere le politiche territoriali europee. Già, ma come si fa a stabilire qual è l'equa compensazione per la sottrazione di terreno vergine alla comunità? Gli scienziati, anche italiani, sono al lavoro. Maria Paola Dosi, della Regione Emilia-Romagna. Un strumento molto potente è il conto che mette in relazione l'economia con tutti gli scambi intersettoriali interni all'economia con quello che l'economia utilizza e quello che emette. Quindi sostanzialmente la filiera della produzione con i suoi intake e outtake dalla natura, dall'ambiente circostante. Quindi quello che sottrae in termini di risorse naturali che immette nel processo produttivo è quello che è un sottoprodotto, perché sono le emissioni. Ecco, Emilia Romagna in un progetto europeo ha cercato di mettere insieme varie regioni europee analizzando il benchmarking delle performance ambientali, ovvero i settori che meglio si comportano, e vedere perché. Chiaramente questo strumento è uno strumento di potenziale simulazione di scenari per orientare le politiche ed evitare gli effetti negativi. Un calcolo difficile ma non impossibile e soprattutto necessario. Reportage in collaborazione con Euronet.